Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, leggermente in ritardo, ma era giusto dare spazio nel GR agli aggiornamenti sia sul ballottaggio, sia purtroppo sui funerali in corso a Brindisi e gli sviluppi anche per quello che riguarda il terremoto in Emilia, weekend molto pesante in Italia e molto drammatico. Era un weekend comunque anche molto inteso, poi chiaramente per via dell'attentato di Brindisi e del terremoto è scivolato un po' più in secondo piano. Dicevo, un weekend molto atteso anche per capire cosa sarebbe uscito dal G20, G8 più G20 di Camp David. Ebbene, i giornali titolavano sabato Angela Merkel, la Germania isolata. Sarà pure isolata, ma mi sembra che viva molto bene in questo isolamento, e adesso commenteremo anche perché. Sarà poi un approfondimento nella seconda ora del programma. Parleremo invece in apertura del rapporto che oggi è pubblicato sulla nostra produzione industriale, è il rapporto che ogni anno viene presentato da Intesa San Paolo e Prometei, l'analisi dei settori industriali. In un anno in cui per esempio nel mese di febbraio il dato sulla produzione industriale è risultato il peggiore dal 2009, meno 6,8%, ma non ci sono solo ombre, c'è anche spazio per qualche elemento di luce. Parleremo dei mercati. Allora, oggi Milano, visto che moltissime società staccano il dividendo, l'indice non fa molto testo, l'indice perde lo 0,55%, però avviene sempre quando si stacca la cedola, cioè quando vengono distribuiti gli utili agli azionisti, il titolo perde l'equivalente. Allora, rettificato per quello che sarebbe l'andamento corretto, bisogna mettere un più 1,8 su questo meno 0,6, in sostanza saremo un più 1,2 a spanne, più 1,2, più 1,3, è in linea con quanto avviene nel resto d'Europa, visto che Francoforte guadagna l'1,1, Parigi lo 0,70, Londra più 1%, l'America più 0,70. Nel caso specifico poi alcuni titoli, e questi sono depurati dallo stacco cedole, vanno molto bene. In particolar modo è fortissimo il Banco Popolare, più 15,80% a un euro per azione, dopo che venerdì la Banca d'Italia ha detto che i modelli interni del banco sui rischi di credito e sulla patrimonializzazione vanno bene, quindi il Banco Popolare non dovrà fare un aumento di capitale, non dovrà cercare soldi per aumentare il suo capitale. Il mercato festeggia come, e si attende giudizi analoghi da parte della Banca d'Italia anche per UbiBanca e la Popolare di Milano, tant'è che UbiBanca guadagna l'8,90%, la Popolare di Milano guadagna L'8,21%, bene anche Fiat, il titolo era sceso molto, ma insomma c'è una tendenza in positivo oggi in tutto il settore auto a livello europeo, più 7,60%, in pregilo più 7,40%, Mediolanum più 4%, come Azimut, Salvatore Ferragamo più 3,50%, Monte dei Paschi più 3,20%, Saipem più 3%, Ansaldo più 2,80%, Mediaset più 2,5%, Exor più 2,30%, come Fiat e Intesa San Paolo, il 2,1% lo guadagnano A2A e Lottomatica. Chi perde oggi? Per fortuna pochi titoli, però due che pesano parecchio. Enel, meno 0,50%, e Eni, meno 0,60%. Terna perde l'1%, Campari, meno 1,30%, Snam, meno 1,45%, Diasori, meno 1,60%. Ci occuperemo di questo, quindi, la produzione industriale italiana, il ruolo della Germania, l'iniziativa Disperati Mai che continua anche oggi, con anche un'adesione che è arrivata da parte dei giovani imprenditori, e ne parleremo nel corso della seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri SMS. Rapidamente le altre notizie in breve. Nel giorno in cui il petrolio è fermo a $91,56 al barile, l'oro è sempre sotto i $1,600 l'oncia, $1,598. Lo spread italiano resta sempre alto, sempre a livelli non sostenibili, anche se è sceso di poco sotto i 430 punti. Il divario invece tra Spagna e Germania è a 483 punti e i titoli di Stato spagnoli rendono il 6,30%, i bonus a 10 anni, i BTP italiani rendono il 5,80%. E oggi invece la Germania ha collocato botta un anno con un rendimento dello 0,026%. Insomma, è negativo in termini reali. Questo vuol dire, tra le altre cose, che un imprenditore tedesco o un privato tedesco, cittadino, che debba chiedere un prestito alla banca ottiene delle condizioni di 5-6 punti percentuali migliori rispetto al suo concorrente italiano e anche spagnolo. Cioè, se l'imprenditore italiano va in banca e chiede un prestito, si vede praticare un tasso dal 7-8% in su. In Germania arriverai al 2-2,5%, massimo 3%. Voi capite che il 6% di differenza nell'avere un prestito con i chiari di luna che ci sono in giro è la differenza tra l'utile e il non utile, eh? E anche qualcosa di più. Ecco perché si dice concorrenza interna all'area euro, quando tu hai un paese come la Germania che può prestare soldi al 2-3% e paesi come l'Italia che li devono prestare al 7-8, o la Spagna all'8-9, o la Francia al 5-6. Nel frattempo Angela Merkel dice di essere soddisfatta dell'incontro di Camp David, buono l'incontro con Hollande. Berlino resta contraria a ogni ipotesi di Eurobond, cioè di rendere in parte europeo il debito di vari paesi. E dice la Merkel ha anche detto: non abbiamo proposto alcun referendum ad Atene. Nel frattempo però il leader della coalizione delle sinistre, che è divenuto in Grecia il secondo partito dopo l'elezione del 6 maggio, Alexis Tsipras, ha detto: attenzione, il cancelliere tedesco Angela Merkel deve capire che non è la proprietaria o l'affittuaria dell'area euro. Nel giorno in cui un sondaggio in Grecia dimostra come il 52% dei greci vuole restare nell'area euro, non è tantissimo, eh? È di pochissimo la maggioranza. Secondo il rapporto diffuso oggi da PricewaterhouseCoopers, alle banche europee comunque per rafforzare il capitale servono 50 miliardi che dovranno essere ottenuti vendendo asset in portafoglio. E nel frattempo dalla Spagna arriva il ministro dell'economia Luis de Guindos, che dice non ci serve un aiuto esterno per le banche, però ammette che a Bankia, cioè la banca nazionalizzata, quella che era il risultato della fusione di varie banche locali, a Bankia servono altri 7 miliardi e mezzo per rispettare gli obiettivi sugli accantonamenti. Nel frattempo, secondo le anticipazioni del Mondo, un rapporto del Fondo Monetario Internazionale atteso entro metà giugno fotograferebbe una situazione tutto sommato positiva nelle banche spagnole, il 70% delle quali infatti sarebbe in grado di far fronte a un peggioramento della recessione, mentre il 30% potrebbe aver bisogno di aiuti di Stato. E il premier spagnolo Mariano Rajoy sarà anche lui a Roma assieme a Angela Merkel e François Hollande nell'incontro annunciato e organizzato dal premier italiano Mario Monti, un incontro fissato a Roma in vista del Consiglio europeo di fine giugno. La vicenda JP Morgan, il numero uno Jamie Dimon ha detto: ma le perdite di 2 miliardi di dollari sono un evento isolato, sono orgoglioso di JP Morgan e dei suoi dipendenti e non avremmo, i conti sono stati appena intaccati, speriamo di non doverne più parlare e questo buco non metterà a rischio il dividendo. Parleremo poi nella seconda ora del programma di quello che riguarda invece il fisco a livello europeo, perché oggi c'è una classifica a livello europeo in cui l'Italia stranamente risulta il numero uno quanto a pressione fiscale sul costo del lavoro, no? Tasse più oneri sociali, da noi pesa per il 42,6%, nei 17 paesi dell'area euro pesa per il 34%. E nel frattempo però ascoltiamo anche quello che è la crisi degli altri. La nostra rubrica purtroppo trova sempre nuovo materiale. 349-238-6666 per i vostri sms. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, il burosauro, che non è un estinto dinosauro del mesozoico, ma è il gigante, il dinosauro della nostra burocrazia, si è liberato in pochi mesi di 900 auto, poca cosa comunque rispetto alle quasi 10.000 auto blu in circolazione in questo paese, a tutti i livelli, Stato, Regioni, Province, 10.000 auto blu. Però qualcosa inizia a muoversi. I colletti bianchi e i politici hanno messo a disposizione circa l'11% di auto in meno. Hanno a disposizione, scusatemi, l'11% di auto in meno. La pubblica amministrazione ha stipulato 600 nuovi contratti, ma i due terzi dei quali, assicurano il Ministero, sono rinnovi di contratti di noleggio. La maggior parte delle auto acquistate sono auto grigie, cioè di servizio, l'87%. Solo il 13% sono auto blu, ossia di rappresentanza, usate da politici e alti burocrati. Chi è più virtuoso? Allora, l'Emilia e il Friuli sono ai primi posti, perché la percentuale delle auto blu in circolazione sul totale delle auto pubbliche è attorno al 3%. E quindi il nostro applauso va all'Emilia, anzi no, l'applauso lo facciamo ironico, perché brave l'Emilia e il Friuli. La Campania, la Sicilia non ci fanno mai mancare un riferimento. Ma è possibile che in Campania, col massimo rispetto per i campani, il 30% delle auto in circolazione, 29,5, è una cifra che trovo allucinante, siano auto blu o comunque, e in Sicilia il 26,6%. Allora, l'applauso va alla incapacità di ridurre le auto blu della regione Campania, della regione Sicilia, così gli elettori poi si ricorderanno, speremmo. Cos'è questa crisi? No, anche perché dal giro di vita di quest'anno il governo conta di risparmiare circa 300 milioni di euro. Pensate che nel 2011 le auto targate pubblica amministrazione, chiamiamole così, sono costate alle casse dello Stato quasi 2 miliardi di euro, 1 miliardo e 200 milioni solo per il personale. Stiamo parlando di 13.600 autisti, 22.154 addetti al parco auto. Io non voglio che questi perdano il posto di lavoro, ma non si può avere un paese in cui ci sono 40.000 tra addetti auto e autisti per le auto blu o auto grigie, ma per favore. Nel frattempo il resto del paese, quello reale, come lo chiamiamo noi, soffre la congiuntura. È di oggi la presentazione dell'81esimo rapporto analisi dei settori industriali del gruppo Intesa San Paolo assieme all'Istituto di Ricerca Prometeia. 349-238-6666 per i vostri sms. Il rapporto è una proiezione soprattutto verso il 2016, perché sappiamo come vanno gli ordinativi fatturati. Gli ordinativi a marzo hanno fatto meno 14% rispetto a un anno prima, a marzo 2011, più 3,5% rispetto a febbraio, e con il ribasso più forte anno su anno da quando è scoppiata la crisi, l'agosto 2009. Ancora il fatturato di commercio estero ha fatto più 1,7% l'export e più 4,9% rispetto a marzo 2011. L'industria vede la produzione calare a febbraio del 7% rispetto all'anno prima, il dato anche qui peggiore dal 2009. Dottor Fabrizio Guelpa, responsabile dell'ufficio studi industrie e banche del gruppo Intesa San Paolo, buonasera. Buonasera a lei. Dunque, il vostro rapporto in primo luogo. Allora, sappiamo che quest'anno sarà un anno difficile. Il calo che voi stimate comunque nel 2012 non è pesantissimo, meno 2,7%, però... Esatto. Giusto? Sì, esatto. Ma la cosa più interessante, sperando che non siete troppo ottimisti, è relativa al triennio 2013-2016. Lì arriverà un po' di ripresa? Sì, esattamente. Noi abbiamo una proiezione del fatturato a prezzi costanti del 2013 a 1,4 e la 2014-2016 nei singoli anni mediamente all'1,9. Quindi una piccola ripresa basata su un'idea fondamentale, che ci sono nel nostro paese moltissime imprese competitive. La grande sfida è quella di diffondere le strategie vincenti anche alle imprese che in questo momento oggettivamente competitive non sono. E le strategie chiave secondo noi sono nella ricerca e innovazione. Le nostre imprese si ritengono innovative, è vero, fanno tanta innovazione, però il valore della loro innovazione non è particolarmente elevato, è una riprova data ad esempio dal contenuto di IRS, che è grosso modo la metà di quello che hanno le controparti francesi e tedesche. Dobbiamo anche accelerare sul fronte dell'internazionalizzazione, anche su questo fronte la percezione generalizzata è che si sia fatto moltissimo, in alcuni casi qualcuno pensa anche troppo. In realtà il volume dei nostri investimenti all'estero è solo un terzo dei francesi, che hanno un'economia grossa come la nostra, piuttosto dei tedeschi. Quindi anche da questo punto di vista le imprese possono fare di più, alcune l'hanno già fatto, ma anche altre se ne devono aggiungere. Sì, voi confermate quindi che insomma, la ripresa arriverà dall'export, sostanzialmente sì. Più di 2% all'anno, però... questa è la cosa positiva, cioè che stando al vostro rapporto, tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013 questa ripresa si sentirà in maniera un po' più forte nei fatturati e negli ordinativi. La cosa invece più negativa è che la contrazione, il calo dei fatturati delle imprese, ahimè, nel 2012 riguarderà tutti i settori con l'unica eccezione della farmaceutica e metallurgia, sì, ho capito bene? Le eccezioni sono quelle con valori prossime a zero, la farmaceutica più 0,2 e la metallurgia più 0,1, quindi non siamo molto distanti da zero, però anche sul piano proprio squisitamente statistico il 2012 sostanzialmente è andato, siamo arrivati a metà anno, quindi ci trasciniamo i crolli di inizio anno che compromettono il risultato complessivo. Ancora, per quello che riguarda invece i settori, voi notate, insomma, il manifatturiero italiano soffrirà, e soffriranno tra l'altro anche i beni tipici da consumo, cioè non stiamo parlando solo della meccanica industriale, della meccanica di precisione, no? Voi beni di consumo durevoli, automobili, motocicli, mobili, elettrodomestici, che avranno i cali più significativi, mentre gli altri settori, meccanica, elettrotecnica, potranno avvalersi, se ho ben capito, comunque dell'export. C'è una, diciamo, le parole chiave sono, come segno negativo, sono tutti beni che hanno un elevato valore, che le famiglie in questo momento chiaramente stanno risparmiando, e la spesa può essere rimandata, e quindi riguarda il mondo sicuramente dell'automobile, il mondo della casa, il contenuto della casa, i mobili, gli elettrodomestici, mentre invece segno, diciamo, più favorevole prodotti come può essere la farmaceutica, dove siamo competitivi, dove si esporta, e prodotti dove c'è una capacità esportativa elevata con domanda interna non particolarmente buona, come sono tutti i prodotti meccanici. Questo è il 2012. Con la ripresa 2013 successivamente le gerarchie cambiano parzialmente. I settori, vediamo bene, sono essenzialmente quelli legati al mondo degli investimenti, la meccanica, l'elettrotecnica, la metallurgia, mentre continuiamo a vedere meno favorevolmente i prodotti dove c'è una domanda strutturale più debole nel mondo della moda, ad esempio. Allora, dopo il meteo, vorrei chiedere un'ultima cosa, dottor Guelpa, che riguarda invece sempre nei settori, quello che voi notate, cioè voi dite che da qua al 2016 cambierà anche il peso del classico Made in Italy nel nostro export, no? Noi siamo abituati a sapere le 4A di Marco Fortis, no? Automobile, alimentare, arredo e me ne manca una, automazione forse, e abbigliamento, eccola qua, a essere, diciamo, le 4A portanti del nostro export. Voi dite che in realtà nel 2016 vi saranno anche altri soggetti che contribuiranno. Su questo lo vorrei sentire dopo il meteo e la pubblicità. Leggo intanto il messaggio di un ascoltatore che dice che, a proposito di auto blu, che il presidente del Trentino gira, della provincia di Trento immagino, su una Audi A8 nuova, e per non prendere la multa alla targa della protezione civile, immagino che sia uno scherzo, perché chiaramente non può essere così. 349-238-6666 per i vostri sms. Meteo. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta. Purtroppo, a giudicare dai vostri messaggi, non era uno scherzo. Adesso leggerò cosa state scrivendo sui presidenti della provincia di Trento e Bolzano, che hanno Audi 8 V8 4200 cc da 340 cavalli dell'AI e Mercedes classe S V8 da 5.000 cc Dunvalder, tutte targate con una targa della protezione civile. Ma che gli serve una macchina così veloce? Tanto non è mica così grande sta provincia, poi non, c'è il tutor, ci sono i controlli di velocità. Vabbè, adesso ci arriviamo. E invece, dottor Guelpa, torniamo e concludiamo sul rapporto annuale di Intesa San Paolo e Prometeia sui settori industriali di questo paese. Dicevo, voi stimate che da qua al 2016 cambierà il peso del classico Made in Italy, no? Sì, nel lungo periodo i pesi cambiano in modo piuttosto lento, però per intendersi quello che è il Made in Italy tradizionale, alimentari, mobili, elettrodomestici, mobili, escludendo la parte più tecnologica come la meccanica, che aveva un peso negli ultimi 10-15 anni attorno al 30%, lo vediamo scendere al 35%, insomma sembra poco però un salto importante, mentre quello che guadagna peso non è tanto l'high tech, che su quale abbiamo molte debolezze, quanto sono settori mid tech, quelli legati alla metallurgia, alla meccanica, all'elettrotecnica, che li vediamo guadagnare circa un 10 punti percentuali, quindi sono come peso, quindi è un salto verso tecnologie più sofisticate che insomma porta. Beh, buono questo, no? Se non siamo più legati solo a quegli importantissimi quattro settori che dicevo prima: abbigliamento, automotive, legno, arredo e alimentare. Sì, bene. Da anche tenere presente che in questi settori più tradizionali perdiamo peso non tanto perché ci sono delle difficoltà, quanto parte della produzione le nostre imprese le fanno all'estero, quindi il volume fatto in Italia è più piccolo e quindi apparentemente si arretra, però le nostre imprese governano abbondantemente i processi produttivi, le nostre GRIF continuano ad andare bene, quindi a fare in Italia, a fare all'estero, quello che sa l'Italia un pochino di meno, però sono loro che governano. Allora, grazie, anche perché qualche buona notizia, ripeto, in un 2012 che sarà difficile per il fatturato dell'industria, per la produzione industriale, qualche buona notizia c'è, grazie al responsabile del Centro Studi. Mi dica solo una cosa, dottor Guelpa, in tutto questo però, voi, visto che lei è responsabile dell'Ufficio Studi Industria e Banche, darete un po' più di soldi alle imprese o no? Allo stato attuale il credito non sta decelerando, cioè non sta decrementando come si legge spesso. Allo stato attuale il tasso di crescita è prossimo a zero, ancora insomma attorno all'1%, ci sono state una fortissima decelerazione negli ultimi mesi, questo sicuramente. Lo sforzo da parte delle banche è sicuramente quello di dare credito. La situazione è complessa perché le sofferenze ormai sono diventate veramente stratosferiche. C'è il tasso di sofferenza attualmente, il tasso di insolvenza anno attorno al 2,5%, quindi è una cifra molto grande e comunque fondi per fare prestiti non ce ne sono moltissimi, perché il prestito si fa sì con quello che si raccoglie sui mercati, compreso quello che viene stato dato alla Banca Centrale Europea, però le banche operano anche con mezzi propri e i mezzi propri in questo momento non ce ne sono moltissimi, quindi la crescita che ci potrà essere sul credito direi che possiamo immaginarcela dal 2013, probabilmente non su 2012. Grazie di nuovo Fabrizio Guelpa. Continuiamo così, facciamoci del male. Eh sì, lo dico perché molto banalmente state confermando al 349-238-6666 quello che io pensavo essere uno scherzo. Allora, io non ce l'ho con il presidente dell'AI della provincia di Trento né con il presidente Dunvalde della provincia autonoma di Bolzano, però e abbiamo detto il dato che le regioni più virtuose quanto rapporto auto blu con il resto delle auto sono Friuli ed Emilia e le poco virtuose sono Campania e Sicilia, poco virtuose, quasi il 30%. Però io mi chiedo una cosa, c'è chi dice ma dell'Hydrumvalde ne uso solo una, a Roma è pieno di Audi A8, e mica è un buon motivo per dire allora non lo criticate. Non c'è nessun populismo, io vorrei solo sapere perché il presidente di una provincia deve avere un'auto da 4200 cc, V8, 340 cavalli, 5000 cc, per poter sfrecciare oltre i limiti di velocità con la targa della protezione civile. Ma che protezione civile è? Con lampeggiante, blindata. Oh, è il presidente della provincia di Trento, il presidente della provincia di Bolzano, bellissime province, con un bellissimo festival dell'economia in cui magari non ci inviteranno più dopo quello che dico, non lo so. Ma perché deve avere la A8, che è una macchina che negli altri paesi hanno i presidenti del consiglio, i ministri più importanti? Perché la A4 fa schifo, adesso non voglio fare pubblicità all'Audi, varrebbe anche per la BMW o per la Mercedes. Cioè, perché devi avere 4.340 cavalli che l'intera provincia sei lunga 150 chilometri? Continuiamo così, facciamoci del male. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Vabbè, c'è chi dice che siamo dei fraticioni, dei fraticelli dell'Inquisizione. Non mi sembra, ho solo chiesto perché una macchina così, basta risparmiare un po' di più, no? Nessuno dice che tu non devi avere la macchina di rappresentanza. Ho solo fatto notare che esistono modelli un po' più bassi, senza avere una bomba, che voglio dire, no? Che te serve? Devi rispettare. Ma non sarà mica possibile che questi non rispettino i limiti, eh? Non è che la targa della protezione civile per questo motivo, perché a maggior ragione, visto che sei presidente della provincia, devi rispettare i limiti di velocità. Sennò noi chi siamo? E comunque vi ridò il dato, visto che dite che non è un elemento così economico. A me non sembra, perché l'abbiamo speso l'anno scorso 2 miliardi di euro per le auto blu, 2 miliardi di euro per le auto blu, 1 miliardo 200 milioni per il personale, 13.667 autisti, 22.150 addetti al parco auto, cioè 40.000 persone che lavorano solo per le auto blu e per la loro manutenzione. 40.000 persone. Comunque, Dell'AI e Dunvalder, come tutti i vari rappresentanti della Sicilia e della Campania, se si sentono offesi possono chiamare e spiegarci perché hanno bisogno di auto così potenti. La mia domanda era solo questa: un'auto che costano 80-90 mila euro, penso anche 100 mila in alcuni casi, poi blindate, tutto qua. Poi sì, uno potrebbe aggiungere anche una macchina italiana, non sarebbe male, ma non voglio nemmeno entrare in questa polemica. Dico solo perché così potente, un Audi A4 2000, una BMW 325, cos'è? Quella roba lì, insomma, no? Meglio se è una Lancia italiana, secondo me. Comunque la borsa. Che va bene oggi nonostante l'indice, nel senso che è corretto per lo stacco cedole, oggi staccano dividendi moltissime società, quindi i titoli si muovono in conseguenza, però rettificato pesa l'1,8% lo stacco delle cedole, per cui è un meno 0,30, sarebbe come un più 1,5% oggi Milano, che è tra le migliori, anzi forse la migliore, perché Parigi ha fatto più 0,6, Francoforte più 1, Londra più 0,90%. E il botto vero e proprio è quello del Banco Popolare, che va a 1,03 euro per azione, più 18,94%. Partiamo subito da lì con Ceo Condina, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera a voi. Sì, è un boom per il Banco Popolare. Ricordiamo che le performance dei singoli titoli non vanno depurate dallo stacco cedere, quindi sono insomma già performance insomma vere, tra virgolette. Il Banco fa più 19%, questo perché in ragione soprattutto della notizia arrivata venerdì scorso a mercati chiusi, che la Banca d'Italia ha di fatto autorizzato l'Istituto Veronese a adottare i propri modelli interni per la misurazione dei rischi di credito. Cosa significa in parole povere? Significa che la patrimonializzazione del Banco Popolare è salita al 9,4% per quanto riguarda il core tier, e quindi che è in linea con i requisiti richiesti dalle istituzioni europee, quindi non ci sarà bisogno di ulteriori iniezioni di capitale. A breve anche UbiBanca e BPM aspettano una risposta della Banca d'Italia sui loro criteri di calcolo della patrimonializzazione. Infatti il mercato specula perché UbiBanca guadagna il 9% e Banca Popolare di Milano l'8,3%. Allora, e il mercato si aspetta, appunto, come tu dicevi, un via libera identico, ecco perché UbiBanca fa più 9 e proprio Milano più 8, 36%. Adesso c'è il traffico, poi andiamo sugli altri titoli. Una nota la devo dare, però poi chiudiamola qua, però con le auto blu. A me non me ne frega nulla delle auto che hanno gli investitori delegati delle società private. Se li pagano le società private, risponderanno agli azionisti, ai consigli di amministrazione, fatti loro. Quello che è inaccettabile è che chi rappresenta le istituzioni pubbliche, quindi viene pagato dai nostri soldi, a maggior ragione il Trentino e l'Alto Adige, che a cui noi tutti versiamo per l'autonomia delle regioni una marea di tasse che paghiamo, ecco, io voglio capire perché deve girare per il Trentino uno e per l'Alto Adige quell'altro con l'Audi A8 da 340 cavalli, 4.000 di cilindrata, 5.000 in altro caso. Cosa c'entrano? I privati facessero quello che vogliono, su, traffico. Focus Economia. Di nuovo in diretta per commentare la borsa, però sorrido perché c'è qualcuno che ha preso a cuore la difesa delle Audi A8, delle Mercedes da 5.000 cc, dei presidenti. Oh, li ho usati solo come esempio, perché aveva scritto un ascoltatore, c'è chi dice lei non sa che le Audi A8 e la Mercedes sono le auto blindate più economiche. Ho capito, vorrei capire perché deve essere blindato il presidente di una provincia, ma non entro nel ruolo del Viminale. C'è un altro che dice ha finito di fare demagogia, le auto vengono scelte in base ad una gara d'appalto, significa che quei due modelli hanno fatto le offerte migliori. Ho capito, ma l'appalto chi l'ha deciso? Cioè è chiaro che dici voglio spendere 80.000 euro è una cosa, voglio spendere 40.000 è un'altra, non mi sembra un concetto così difficile, no? Perché voglio dire, nel senso, cosa c'è da obiettare? All'estero funziona così, andiamo a vedere come funziona il presidente delle province in Germania, in Francia e in Gran Bretagna, vediamo se hanno l'Audi A8. Sono pronto a offrire una pizza a tutti quelli che mi stanno contestando, Margherita, nel caso avessi torto. Torniamo con la borsa, va là. Allora, CEO, al di là delle banche, molto bene tutte le tre che abbiamo citato, Popolare, Milano e Ubibanca, Fiat oggi più 8,60%. Sì, era ora, Fiat era caduta molto in basso, era caduta ben sotto i 4 euro, oggi diciamo ci sono diversi fattori che spingono il titolo, da una parte gli opinioni degli esperti, degli analisti che lo giudicano appunto economico, visti i livelli che sono stati raggiunti, dall'altro il fatto che il governo stia studiando, si stia confrontando per dei possibili incentivi, visto il costante calo, lo vediamo mese dopo mese, dei dati delle immatricolazioni del mercato auto in Italia, incentivi che però non sarebbero come quelli diciamo degli anni scorsi, della rottamazione, incentivi che poi il numero uno di Fiat Sergio Marchionne aveva di fatto diciamo allontanato dal gruppo, ma che potrebbero essere più legati a questioni di macchine ambientali o comunque per incentivare fiscalmente le auto aziendali. Fatto sta che comunque Fiat ha fatto un bel balzo oggi in borsa ed è arrivato a recuperare, come dicevi tu, l'8,6%. Non ho dato l'America, avete ragione, più 0,70%. Ancora sui titoli, oltre a Fiat che tu citavi in pregilo, più 7,66%, qui tra l'altro ci sono anche indiscrezioni, CEO. Qui c'è, allora, il tema di fondo è la lotta per il controllo tra Salini. E Gavio, e l'assemblea di luglio del 12 luglio sarà insomma la resa dei conti, in vista dell'assemblea sia Gavio che Salini promettono la possibilità di staccare extra dividendi, Gavio dice addirittura 300 milioni che potrebbero essere legati alla vendita di Fisia che costruisce impianti, Salini dal canto suo ha proposto un dividendo di addirittura 800 milioni per la vendita delle autostrade brasiliane che fanno capo a Impregilo, insomma ognuno cerca di tirare acqua per il suo mulino in vista dell'assemblea. Ancora tra i titoli negativi oggi di poco, gli energetici, ma è motivo per cui l'indice non cresce così tanto come poi abbiamo visto altri titoli, cioè pesano molto Eni ed Enel che hanno ripreso nel finale, Enel meno 0,17, Eni meno 0,26, Terna meno 0,80, Snam meno 1,40%. In tutta Europa oggi l'energia va male. L'energia, come noto, pesa la crisi economica che diminuisce la domanda di energia elettrica da parte soprattutto delle imprese e insomma gli impianti a gas, soprattutto nel business di oggi, hanno bisogno di lavorare molto per creare dei margini, cosa che non è in Italia, che non è in Europa, infatti vediamo aziende come Enel, come la stessa A2A che vabbè, oggi è andata bene in borsa, ma che comunque hanno molti impianti a gas a ciclo combinato e pagano questa contingenza economica. Allora, tra gli altri titoli appunto di Snam abbiamo detto che oltre all'effetto energetico pesa anche la linea che sta passando, cioè il 52% con cui Eni controlla Snam sarà ceduto alla Cassa Depositi e Prestiti, l'altro finirà sul mercato. Vabbè, Saipem invece oggi va un po' meglio, Diasori in meno 1,80%, in assoluto i migliori e peggiori si chiamano Movimax più 19,91, anche oggi Movimax, Banco Popolare più 18,94, abbiamo detto Meridiana Fly più 17,70, Premuda più 9,30, i peggiori Pramac meno 11,10, Juventus Football Club meno 7,40, Arena meno 7,14%. Grazie, ciao Conde, Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora, adesso c'è il GR, poi parliamo degli imprenditori in difficoltà, della tassazione in questo paese che per il lavoro è la più alta in Europa. Mi scrivono alcuni ascoltatori che in Francia i presidenti di regione e provincia hanno auto francesi, se no li ammazzano. Io non voglio fare una polemica sulle auto italiane o non italiane, ma ci mancherebbe. È il modello che mi interessa, la Lancia, la Tesis la fa, tra l'altro sbaglia chi dice che non c'è la Lancia Tesis, ma è il modello così elevato, ma va benissimo comprare la marca che vi offre il miglior contratto, ma perché così alto? Tutto qui è... E non capisco chi difende. C'è chi dice che l'Alto Adige e il Trentino ormai da tempo sono autosufficienti e non ricevono soldi degli italiani. Adesso andiamo a vedere un attimo i trasferimenti, ce li abbiamo quei dati, poi do una risposta e chiedo scusa se ho detto un'inesattezza. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare e fare un bilancio di questo G20, come dicevo, purtroppo passato in secondo piano, G8 soprattutto in secondo piano per via della tragedia dell'attentato a Brindisi e del terremoto a Finale Emilia, ma non solo, in tutta la zona tra Bologna, Basso Mantovano, Modenese e Ferrarese. Devo dare una risposta, però sulle auto blu non ci torno più, ognuno la pensi come vuole. Io vi ho letto i dati e mi aveva solo incuriosito quell'ascoltatore che citava le auto dei presidenti delle province autonome del Trentino da un lato e dell'Alto Adige dall'altro. Auto assurde, a mio avviso assurde, la 8 da 4000 cc, lo dico per la quinta volta, da 340 cavalli, è inutile per un presidente di una provincia. Che deve fare? Su, andare su e giù. No, una buona macchina va bene, risparmiamo qualcosa, visto che spendiamo 2 miliardi di euro l'anno per le auto blu, 2 miliardi. Ma c'era chi contestava sulla provincia autonoma di Trento e Bolzano, non ricevono finanziamenti dagli altri italiani, usano tutte le imposte dirette sul proprio territorio. Beh, a noi non risulta, mi dispiace, perché l'anno scorso per ogni abitante del Trentino Alto Adige, anzi ogni abitante del Trentino Alto Adige ha ricevuto dallo Stato italiano a testa 2.208 euro in più di quanto ha versato. È l'unica regione del nord, il Trentino Alto Adige, assieme al Friuli, ad essere in passivo con lo Stato, cioè riceve più di quanto non versi. Tutte le altre regioni, a partire dalla Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, la Lombardia ha versato 28 miliardi di euro in più rispetto a quello che ha ricevuto, il Veneto 4 miliardi, l'Emilia Romagna 3 miliardi, il Piemonte mezzo miliardo. Okay? Allora, i soldi dell'auto del presidente dell'Aidunvalda sono anche i soldi di tutti gli altri italiani, alla faccia dell'autonomia delle province, che poi non ho capito bene perché ci debba ancora essere. Ma questo è un altro discorso. Parliamo invece dell'autonomia di Angela Merkel, che nonostante sembrasse sotto assedio, è uscita dal vertice in maniera molto rilassata e oggi ha dichiarato: oh, sono soddisfatta, va molto bene con Hollande. E poi il governo tedesco ha detto: restiamo contrari al debito europeo, agli euro bond. 349-238-6666 per i vostri sms. Sì, sembrava che prima del vertice di Camp David Angela Merkel sarebbe stata assediata da Hollande, Obama, Mario Monti meno, ma insomma da tutti i paesi che chiedono alla Germania, oltre al rigore, di iniziare anche un percorso che porti l'Europa ad avere politiche per la crescita. Ma mi sembra che ne sia uscita benissimo. Alessandro Merli, corrispondente su 24 Ore da Francoforte, buonasera. Sì, buonasera a voi. La Merkel oggi è molto soddisfatta e la Germania va avanti, cioè chi si aspettava, no? Una pressione diplomatica pesantissima, mi sembra che sia rimasto un po' deluso. Ma diciamo che ci sono due piani da considerare. Uno è quello di affiancare il discorso della crescita al discorso del patto fiscale, il cosiddetto fiscal compact, e lì la Merkel un po' di movimento l'ha fatto, anche se bisogna intendersi cosa ci deve essere dentro questo pacchetto per la crescita. Secondo i tedeschi, soprattutto riforme strutturali, secondo gli altri anche tutta una serie di altre misure che poi alla fine credo che verranno approvate, il famoso discorso dei più fondi alla BEI, i fondi strutturali europei, i project bond, eccetera. Ci sono però alcune cosiddette linee rosse, alcune linee di demarcazione, oltre le quali i tedeschi non hanno intenzione di andare. Dopo il G8 c'è stato già oggi pomeriggio a Berlino un incontro fra Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, e il suo nuovo corrispettivo francese Moscovici, e Moscovici ha ammesso, uscendo dall'incontro, che per esempio sugli eurobond i tedeschi non hanno intenzione di muoversi, ma che comunque Hollande li metterà sul tavolo del negoziato mercoledì alla riunione dei leader europei. Quindi nessun compromesso su questo punto. Del resto io credo che la Merkel terrà duro il più possibile, quantomeno fino alle elezioni greche e fino alle elezioni francesi del 10-17 giugno, dove a questo punto, dopo aver tifato per Sarkozy alle presidenziali, la Merkel tifa per i socialisti, perché vorrebbe che a Parigi ci fosse un governo funzionante. Quindi fino a quel punto difficile aspettarsi che la Merkel faccia grandi concessioni prima diciamo del vertice europeo di fine giugno. Bisogna vedere se i mercati terranno fino ad allora. Ecco, a me ha anche impressionato, Alessandro, il fatto che cioè, dal vertice del G8 di Camp David Obama ha cercato da un lato di rassicurare Angela Merkel, ha detto insomma attenzione, promuovere la crescita non significa abbandonare il rigore, cosa che noi sosteniamo da tempo molto modestamente, cioè si può essere rigorosi nei conti ma avere anche qualche iniziativa per la crescita. Però non mi sembra, ecco, che la pressione americana abbia sortito qualche effetto. Forse ci si poteva aspettare un Obama un po' più incisivo, è sembrato quasi essere preoccupato di non offendere i tedeschi, tra virgolette. Ma la verità è che tutte le decisioni vanno prese in sede europea. Obama può fare tutta la pressione che vuole, ma in un certo senso è un outsider in questo discorso. Chiaramente è un outsider interessato, perché Obama è molto preoccupato che un eventuale tracollo in Europa comprometta le sue possibilità di rielezione in novembre. Però insomma tutta la partita si gioca in Europa. Si gioca in Europa e si gioca anche in Germania, perché è stato annunciato oggi che giovedì la Merkel e Schäuble vedranno i deputati dell'opposizione, socialdemocratici e verdi. Perché questo? Perché il fiscal compact deve essere ratificato dal Parlamento, da tutti e due i rami del Parlamento in Germania, e c'è bisogno dei due terzi dei voti. Quindi anche in quella sede, secondo me, la Merkel sarà tenuta a fare qualche concessione, perché socialdemocrati e verdi, cioè le opposizioni, chiedono che ci sia qualcosa sulla crescita. Però appunto sarebbe strano aspettarsi dalla Merkel che prima di questo appuntamento e prima degli incontri europei annunci già quali concessioni intende fare. Allora, c'è anche molta tattica, diciamo, in questa posizione della Merkel. Appunto, non mi sembra che veramente alcun effetto sia stato sortito, ma tu hai ragione nel ricordare che insomma ci sono anche scadenze elettorali importanti. Grazie in collegamento con Alessandro Melli, in collegamento con noi da Francoforte. Il traffico, e poi torniamo con altri aspetti oggi sull'iniziativa Disperati Mai. Noi non molliamo né dimentichiamo. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta per l'ultima parte con Sebastiano Berisoni di Focus Economia, per l'ultima parte del programma. Dicevo, l'iniziativa Disperati Mai, @radio24.it. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe. Vivo il mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostro. superpotere, sono un eroe. Buongiorno, mio marito ha un'impresa dell'edilizia di terza generazione. Questa mattina ha una riunione con i sindacati perché purtroppo deve mettere a casa 10 dei suoi collaboratori. Queste persone le ha in esubero da circa 2 anni, però ha tenuto duro in quanto a ridosso della pensione. Ora che la pensione l'hanno spostata di almeno altri 2 anni, mio marito non è più in grado di stipendiarli. Le voglio citare però un episodio che abbiamo vissuto. Nel 2006 abbiamo costruito 12 villette, il progettista sta incaricato a seguire i lavori, improvvisamente scompare, pertanto dobbiamo trovarne un altro e pagarne un altro. Abbiamo pronti tutti gli impianti idraulici, ma arrivano i ladri e rubano tutto ed erano ancora imballati. Anche in questo caso ricompriamo tutto con un'altra ditta che portiamo nel lavoro. Finalmente le case sono finite e pronte alla consegna. Invece no, purtroppo durante la notte rubano di nuovo tutte le grondaie in rame, creando anche grossi danni alla muratura. Ricompriamo di nuovo tutto, riaggiustiamo e rimontiamo tutto, compriamo e paghiamo, delle guardie notturne che controllino il cantiere e quindi le case vanno consegnate. Ora arriva il bello. Nel 2010 l'ufficio delle entrate, nel constatare che questo cantiere non ha portato utili, multa l'impresa di 1 milione di euro, nonostante fosse tutto documentato. Ci hanno solo concesso di pagare a rate per 250.000 euro l'anno. Buongiorno, sono titolare di un'azienda che opera nel settore editoriale facendo libri e riviste per conto terzi, un'attività che ci ha portato ad avere anche una decina di dipendenti in tempi in cui le edicole vendevano milioni di copie di libri allegati a quotidiani settimanali e noi abbiamo curato alcune delle più prestigiose e fortunate collane editoriali. Poi i tempi sono cambiati, la crisi ha eroso per primi i consumi culturali, i grossi gruppi editoriali hanno colto al volo l'occasione per ristrutturarsi tagliando drasticamente i compensi ai collaboratori esterni e allungando drammaticamente i tempi di pagamento. Le banche hanno fatto il resto, chiudendo da un giorno all'altro le linee di credito. Ci siamo mangiati in pochi mesi quanto faticosamente accumulato in anni di lavoro. Abbiamo cominciato a contrarre debiti che hanno chiamato altri debiti. Abbiamo accettato lavori sempre peggio compensati, tagliato ogni genere di investimento o consumo. Siamo sul lastrico. Resistere per cosa? Forse solo perché amiamo il nostro lavoro o perché non sappiamo fare altro che continuiamo a fare il nostro lavoro, ma sono stanco, angosciato e sfiduciato. La vostra iniziativa comunque è stata un raggio di sole in un cielo nero e fosco. Buongiorno, ho compiuto qualche giorno fa 42 anni e 12 anni fa ho deciso di lasciare il famoso lavoro sicuro per aprire una cooperativa di quelle vere, per creare posti di lavoro in un settore che mi piaceva, quello dei servizi alle aziende. La nostra cooperativa si occupa di servizi di portierato e antincendio e negli anni è riuscita a creare 25 posti di lavoro, siamo arrivati anche a 40. Come un buon padre di famiglia ho sempre cercato di pagare tutto, odio il lavoro in nero e per questo abbiamo fatto sempre tutto in regola, ma questo chiaramente ci ha messo fuori mercato. Ci sono aziende che lavorano a 11 euro l'ora e quindi negli anni abbiamo perso anche alcuni appalti. Ora le banche ci stanno chiedendo di rientrare o diminuire i fidi, ma come si può continuare ad andare avanti così? Mi trovo spesso a valutare di lasciare gli appalti e licenziare le persone, ma il peso delle famiglie che comunque mangiano anche grazie alla cooperativa è pesante, ma davvero cominciamo a non farcela più. Le tasse e le banche ci stanno stritolando e chissà se riusciremo a resistere fino a fine anno. Certo, i lavoratori probabilmente saranno riassorbiti da altre società, ma a quali condizioni? Sto cercando di resistere, non sono uno che molla, che pensa a soluzioni estreme che poi soluzioni non lo sono veramente, ma la pressione è troppa e prima o poi la famosa spugna sarà gettata. Vi ringrazio comunque. E io ringrazio nel frattempo per averci raggiunto in collegamento Gianluigi Colombo, che è vicepresidente del gruppo Giovani Imprenditori del Sistema Moda Italia. Buonasera. Buonasera a lei. Dunque, il Sistema Moda Italia, ce ne siamo occupati spesso, è una delle più grandi organizzazioni al mondo che rappresenta gli industriali della moda, del tessile e della moda. Da noi questo significa 60.000 aziende e oltre 500.000 di addetti. Che cosa c'entra Sistema Moda Italia con Disperati Mai, vicepresidente Colombo? Beh, allora, innanzitutto è importante per noi la volontà di volerla condividere questa iniziativa e tanto vi ringraziamo perché ne siete fautori. Noi consideriamo questa una situazione in cui di difficoltà, dove ci rendiamo conto che questa battaglia che si è creata per i piccoli imprenditori, soprattutto dove l'Italia è fatta, ed è stata fatta da piccoli e piccolissimi imprenditori che hanno reso poi il paese uno dei primi nel mondo, questi imprenditori prima di chiudere o di fallire danno fondo a tutto quello che hanno, cioè si rimettono in gioco come prime persone, cercano di rispondere poi in prima persona a quelle che sono le difficoltà, quindi banche, tribunali, dipendenti, ma queste straordinarie persone noi abbiamo l'obbligo morale di aiutarle, e se non ci riescono le istituzioni, che da questa parte non sentono, dobbiamo autonomamente creare una rete di sicurezza. Ecco perché noi come gruppo Giovani di SMI vorremmo essere il veicolo per trasmettere questo messaggio importante sia al sistema Moda Italia che al sistema Confindustriale, il messaggio che disperati mai, perché qualunque iniziativa dovesse necessitare di supporto, ecco, noi vorremmo essere presenti. Allora, prima domanda però, anche al vostro interno come giovani industriali del sistema Moda e Tessile, avete avuto casi di difficoltà estreme di vostri colleghi associati che obiettivamente si sentono soli, isolati e arrivano a una disperazione? Sì, purtroppo sì, lo stiamo vivendo ormai da diverso tempo, e ci sono all'interno del nostro gruppo persone che stanno sostenendo veramente delle situazioni di grande difficoltà, e noi ci rendiamo conto che sostanzialmente queste persone non hanno modo per trovare un appoggio che sia anche psicologico e quindi che li aiuti, diventi un ausilio per trovare la forza per uscire da queste situazioni. Quindi è proprio per questo motivo che noi sentiamo molto vicina questa iniziativa, perché è un'iniziativa importantissima. Ed è per questo che noi vogliamo condividere con voi questa iniziativa, perché vorremmo trovare il modo per queste persone che si sentono in difficoltà, questi imprenditori che ce la mettono tutta ma non riescono, vorremmo essere insomma parte integrante del progetto per cercare di aiutarli. State pensando, oltre che diciamo a un centro di ascolto, chiamiamolo così, anche a una raccolta fondi per, penso in primo luogo, i vostri associati, ma non solo? Beh, sicuramente. Questa è una parte fondamentale, è una cosa di cui stiamo discutendo in consiglio. Vorremmo veramente cercare di contribuire anche economicamente a creare un fondo che ci permetta di creare questi sportelli di ascolto per imprenditori in difficoltà. Beh, io vi auguro chiaramente in bocca al lupo. Noi continueremo a dare voce attraverso le vostre lettere, le lettere di chi ci scrive, alle difficoltà. È l'unica cosa che una radio può fare obiettivamente, è dare voce. È importante però, per questo che volentieri l'ho ospitata, che si registri sul territorio il nascere di altre iniziative. Voglio dire, se anche riusciremo a sensibilizzare con questa nostra campagna un solo soggetto e evitare un solo caso di disperazione, per noi è già più che sufficiente. Devo dire che su quello mi sembra che si stiano muovendo anche complessivamente i giovani di Confindustria. Vedremo. Io le auguro intanto in bocca al lupo, restiamo in contatto, non perdiamoci di vista Colombo, fateci sapere poi che cosa avrete deciso e che cosa porterà la vostra iniziativa. Massima disponibilità di Radio 24 come sempre con voi e con tutti nel dare eco a un'iniziativa del genere e il più possibile aiutarla, ripeto, per quello che può fare una radio come la nostra. Grazie al vicepresidente del gruppo Giovani Imprenditori del Sistema Moda Italia, Gianluigi Colombo. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto. Allora, chiudiamo come avevamo iniziato. Magari la provincia autonoma di Trento, la provincia autonoma di Bolzano e i presidenti con le Audi A8 una voce ce la vogliono dare su questo? Non è populismo, è che non si può sfrecciare con la targa della protezione civile e non capire come sta il tuo popolo, vogliamo chiamarlo così, visto che oggi ci sono anche gli esiti elettorali. Se no, non vi lamentate troppo di Parma, eh. Comunque, il programma è finito, meno male, diranno alcuni. Ritorno domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.